Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Buon anno, Chiara. Buon anno Federico e buon anno a tutti gli ascoltatori. Naturalmente, allora via con i titoli, gli argomenti di oggi. Allora, partiamo raccontando la storia del farmaco, come nasce un farmaco, se lo domandano alcuni ragazzi di un liceo. E poi invece ci domanderemo, ma Einstein era uno scienziato o era di più un poeta? E sempre in tema di relatività, proviamo a capire se serve proprio la relatività ad aiutare Babbo Natale a consegnare 15 miliardi di doni in soli 6 ore. Lo sapremo alla fine della trasmissione. Via! Una casa editrice italiana scientifica, la Zanichelli, ha fatto un esperimento davvero interessante. Ha incominciato con la Lombardia e poi ci sono progetti di portarlo anche in altre zone dell'Italia. Sono 100 incontri nelle scuole medie superiori, dedicati a tematiche scientifiche. 100 incontri, sono veramente tanti, con un sacco di esperti che sono andati a incontrare i ragazzi. Noi ne abbiamo seguito uno all'Istituto Mappelli di Monza, nel quale il tema era come nascono le medicine. C'era presente come relatore Maurizio D'Incalci, che incominciamo a salutare. Buonasera D'Incalci. Buonasera. Benvenuto. Che è responsabile del Dipartimento di Oncologia dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Lei si è trovato di fronte a un 150-200 ragazzi, ha fatto tutta una sua descrizione del mondo della ricerca farmacologica, però poi siamo passati alle domande. Allora D'Incalci, sentiamo insieme, noi ne abbiamo raccolto un po', ecco. Esatto, e poi dopo le commentiamo. Sentiamole. Dopo l'assegnazione del premio Nobel per la chimica di quest'anno, che appunto hanno scoperto che, cioè, se ci sono delle mutazioni nella riparazione del DNA, possono avere aiuti, diciamo, per la cancerogenesi. State già lavorando su queste cose o? Per quanto riguarda la sperimentazione, non si potrebbe utilizzare le cellule staminali? Perché a volte il medico che prescrive un farmaco ritiene che sia meglio il farmaco di marca e non quello generico? I farmaci omeopatici potrebbero essere considerati come una sorta di placebo? E se sì, perché vengono mantenuti in commercio? Perché potrebbero risultare anche pericolosi? Perché se uno preferisce un omeopatico a un farmaco normale, non è neanche pericoloso per il corpo assumere invece troppi farmaci sintetici che sovraccaricano il fegato e provocano danni al corpo. Si dice spesso che appunto esistono farmaci che sono in grado di curare le malattie in breve tempo, ma le case farmaceutiche preferiscono usare farmaci che appunto hanno un periodo di cura molto più lungo per aumentare il margine di profitto. È vero. Una cosa sul fumo. Perché capita alcune volte nelle coppie dove solo uno fuma, che però fuma tanto in casa, che alla fine prima di ammalarsi è il coniuge che non fuma? Ma io ho sentito che per molte malattie è stata trovata la cura, però per le case farmaceutiche è svantaggiosa e non la vogliono produrre. È vero o è solo una diceria? Non erano studenti di medicina, però erano estremamente preparati e estremamente sul preparati pezzo. E poi D'Incalci hanno un ventaglio amplissimo, no, di tematiche. No, io devo dire che è stata una bella soddisfazione dopo aver fatto questa lezione sentire queste domande, perché molte erano domande anche di persone che comunque seguono quello che succede anche nella scienza, non so, quella che sapeva dei premi Nobel oppure alcuni aspetti molto particolari. L'esigenza di avere delle prove scientifiche se l'omeopatia non funziona, sono tutte queste cose mi hanno molto colpito. L'hanno colpita. D'Incalci, questo tema case farmaceutiche che insomma non seguono tanto la salute della gente, il fatto che ci sono delle soluzioni ma loro non le praticano, cosa gli ha risposto? Non erano lei? Molto fiduciosi, no, ragazzi. Erano un po' scettici. No, io ho cercato di avere una delle risposte equilibrate, nel senso che sicuramente ci sono stati molti casi in cui le case farmaceutiche in qualche modo non si sono comportate nel modo migliore, e anche c'è una logica ovviamente di profitto della casa farmaceutica. Ho cercato però di anche spiegargli che comunque la ricerca poi non è sufficiente per produrre dei farmaci, ci vogliono anche delle case farmaceutiche, e che sicuramente, ecco, è sbagliata l'idea che le case farmaceutiche hanno trovato il rimedio per le malattie ma lo tengono nascosto, cose di questo tipo, perché ho spiegato che proprio nella logica proprio del profitto, se una casa farmaceutica ha un farmaco che veramente funziona, sicuramente gli conviene vendere questo farmaco, per cui questa logica è un po' sbagliata. La logica però, del complotto, insomma. Ecco, questa meglio... cosa qui è un po' sbagliata. Ecco, la cosa che io ho cercato anche un po' di dirgli, che loro devono documentarsi e essere critici sulle cose in qualche modo, no? Per cui analizzare in modo critico i problemi. E devo dire che però anche questo un po' di scetticismo che hanno non guasta, no? Nel senso di non prendere per assodato che tutto quello che viene detto che è utile per forza deve essere utile, no? Anche questa critica sui farmaci, troppi farmaci utilizzati, o per esempio anche questa cosa che è venuta fuori forse anche un po' dalla mia lezione, se ci sono delle terapie che non hanno nessuna dimostrazione di essere efficaci come l'omeopatia, dovrebbero essere abbandonate perché in realtà sono pericolose. Ecco, ho trovato comunque una loro capacità anche di rapidamente capire i problemi e anche avere un atteggiamento giusto, insomma. E poi il ragazzo era talmente nella domanda raffinato questa sull'omeopatia che ha chiesto anche se potesse rappresentare in qualche modo un placebo, e quindi... Sì. La cosa, penso che ho cercato anche un po' di spiegargli che non tutti capiscono che non è detto che se un farmaco sembra funzionare è perché quel farmaco realmente funziona, perché in realtà uno può avere anche mal di testa, prende il farmaco e gli passa il mal di testa, ma non è detto che sia il passato perché ha preso il farmaco, ma poteva magari passare lo stesso. Gli ho spiegato anche questo concetto del placebo, che è una cosa, e credo che questo sia stato utile per capire per loro perché, per esempio, loro poi tra l'altro studiano, erano al liceo scientifico, per cui anche la statistica, l'importanza della scienza, l'importanza dell'applicazione della matematica, del metodo, cose, del metodo, esatto, credo che li abbia anche abbastanza, alcuni ho capito che si sono anche abbastanza appassionati, insomma. In calcio uno studente, non mi ricordo più adesso, una studentessa del Mapelli di Monza, liceo scientifico, le ha anche detto: ma non è che ci sono troppi farmaci, che è un tema che voi del Mario Negri so che... Sì, credo che questo anche sia molto utile, cioè di avere l'idea che il farmaco deve essere usato quando serve, quando deve curare una malattia, quando deve curare un sintomo, e non giusto perché in qualche modo il farmaco deve essere sempre anche connesso a effetti collaterali, quindi a questo rapporto rischi-benefici, no? Cioè uno lo prende sapendo che comporta anche un rischio, una tossicità, eccetera. Ecco, questo mi sembrava che fosse patrimonio già un po' loro di conoscenza in qualche modo. Un ragazzo glielo ha chiesto, però insomma una voce autorevole come la sua è importante, insomma, che spieghi anche il rapporto con il fumo, perché insomma i ragazzi di quell'età lo scoprono e magari ne fanno un abuso, ed è importante che ne sappiano le conseguenze. Sì, assolutamente, e credo che sia anche importante che loro, che possono avere gli strumenti scientifici, capiscono che è sempre un discorso statistico, no? Cioè questo discorso che può fare una persona che non sa nulla di statistica, di scienza, eccetera, dice: ma il mio nonno fumava 40 sigarette al giorno e non ha avuto il cancro, no? Sì. Questo tipo di cose. Così come lui diceva, magari viene il cancro a quello che prende il fumo passivo, così. Cioè spiegare che c'è comunque una suscettibilità, che però al di là della suscettibilità è un fattore talmente importante che fumare fa veramente malissimo, e è una cosa questa che ho cercato di enfatizzare molto, anche perché adesso ci sono ancora moltissimi giovani che fumano e soprattutto tante ragazzine che non si rendono conto che poi stanno veramente facendo una cosa grave, perché evidentemente il bene della salute è il bene maggiore che abbiamo, per cui, e credo che essere un po' molto così diciamo anche molto chiari su questo, cioè non avere questa flessibilità, dice beh ma una sigaretta così, in realtà bisogna essere molto chiari, è un veleno potente che possiamo cercare di eliminare e eliminandolo riusciremo a avere meno malattie, che in fondo è lo scopo poi di tutti noi che lavoriamo nella salute. Anche perché sono ancora nell'età, tutti quanti possono smettere di fumare, cioè non è che, però sono ancora in un'età in cui è così, la sigaretta è un pochino, per esempio queste ragazzine che la vedono come un simbolo di emancipazione, in realtà deve essere visto come un simbolo di stupidità, ecco, e questo qui è la cosa che devono tra di loro anche probabilmente dire, ma sei scemo, fumi, cosa fai? Speriamo, insomma. Va bene, grazie Maurizio. Davvero, buon lavoro, buona ricerca. Buon lavoro. Vi ringrazio, buona serata. Come sarà il traffico il 2 di gennaio? Andiamo a vedere. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il 2015 era l'anno della relatività, il centenario della pubblicazione di articoli fondamentali di Einstein, e noi invece parliamo della relatività il secondo giorno che è d'inizio del 2016. Ma questa diversità ha un suo senso perché vogliamo raccontarvi un aspetto che è tendenzialmente molto poco capito, molto poco esplorato da noi tutti, dal largo pubblico, e lo faccio con Fernando Ferroni. Buonasera Ferroni. Salve. Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi lei è ordinario alla Sapienza di Fisica. Allora Ferroni, mi dica se sbaglio, io incomincerei così. L'immagine che si ha tutti di come procede la ricerca scientifica è che c'è un certo fenomeno, uno dei tanti insomma che mano a mano sono stati scoperti, interpretati, ma c'è qualcosa che non conosciamo, mettiamo in piedi degli esperimenti, a volte si inventano anche delle apparecchiature che possono essere utili per fare l'esperimento su un fenomeno nuovo, dagli esperimenti vengono fuori dei numeri, si mettono sulla carta, adesso ovviamente si usano i computer, si cerca di individuare una certa regolarità in questi dati, magari si fanno ulteriori esperimenti e a un certo momento, smanettando con quel grande strumento che è la matematica, viene fuori una formula, una legge, come si dice. Ecco, questo è certamente un modo di procedere classico della scienza, però ci sono dei casi in cui non è affatto così che si procede e abbiamo una procedura, un modo che potrebbe essere definito poetico addirittura, cioè il massimo della creatività. E se parliamo di relatività, siamo in questa direzione, è vero? È assolutamente vero, è una direzione diversa da quella che con noi, poi io faccio il fisico sperimentale nella vita, che appunto viviamo tutti i giorni. A un certo punto, ed è secondo me questo però accade veramente in coincidenza delle grandi rivoluzioni che poi marcano il percorso della scienza, la scienza non diventa più un oggetto che è evolutivo. Non diventa più la somma diciamo di piccoli passi che alla fine fanno un lungo percorso. La scienza ha dei momenti di rottura, i momenti di rottura sono, certamente contengono dentro di sé il concetto profondo che è anche quello della poesia, vuol dire che le grandi rotture sono dovute a singoli individui, sono dovute a persone che nella loro mente identificano dei percorsi, identificano dei processi che vedono il nuovo mondo, che vedono la nuova fisica, in particolare in questo caso. Aprono delle finestre. Albert Einstein non aveva nessuna necessità di far derivare la relatività generale dagli esperimenti fatti. Non c'era nessuna necessità al mondo, nessun dato misurabile che dicesse che la scienza, come era dal punto di vista dei pianeti che girano intorno alle stelle, delle galassie che si allontanano o si avvicinano, della luce che diventa più colorata, più rossa o più blu, non c'era niente che richiedesse la relatività generale. E quindi questo è un processo che sta dentro la mente di Einstein, è un processo che dice: io voglio che il mondo sia più semplice, questo mondo è troppo complicato, questo mondo in cui io devo dire ma c'è la forza che tiene insieme il pianeta con quell'altro, sì, ma poi questa forza che tiene il pianeta con quell'altro come si parla, no? Diciamo, cioè, che cos'è questa cosa, no? Istantaneamente sanno l'uno dell'altro, è tutto nella mente semplice, è veramente nella mente semplice di Einstein, e questo secondo me era veramente troppo complicato. Cioè, in un certo senso lui non c'è nessuna domanda, lei dice, no. Lui crea la domanda e propone una risposta. Ecco, il fatto che proponga una risposta, adesso noi non dobbiamo entrare nel dettaglio perché in fondo non è l'aspetto strettamente scientifico che ci interessa, però lui propone una risposta, ma non c'è nessun esperimento. Da quel momento si va a caccia degli esperimenti e solo dopo arrivano le conferme. Ma assolutamente sì. Ecco. Assolutamente sì, intanto la cosa straordinaria della relatività generale è che diciamo, l'universo intero, il suo comportamento è contenuto in meno di una riga di matematica, è una formulina bellissima, sì. È una formulina elegantissima e così piccola che uno dice vabbè, ma questo cosa potrà mai spiegare? Questo spiega il mondo, bene? Sì. Almeno il mondo macroscopico, poi ci sono le formuline bellissime della meccanica quantistica che sono anch'esse cortissime. No? Quelle di Dirac e quelle di Heisenberg, che sono altrettanto corte e che spiegano un altro mondo. E noti bene che i due mondi non li sappiamo far andare d'accordo. Ancora oggi è talmente forte la poetica. Questi due mondi non si parlano, ecco, sì. Questo è un caso interessantissimo. Quindi Einstein appunto si crea una risposta che è poi una risposta abbastanza ripeto, è una risposta semplice, cioè non c'è di fatto una forza gravitazionale, c'è un tessuto dello spazio che viene deformato dalla presenza delle masse. Dopodiché tutto gira come se si possono fare anche esperimenti, voglio dire, per i bambini se ne fanno nei musei della scienza, diciamo, la nostra limitazione è che siamo tridimensionali, ma a parte questo, diciamo, un po' di immaginazione ci aiuta, va bene? Quindi niente, Einstein si crea si pone una domanda, si dà la risposta, se la mette in una forma elegantissima. Il giorno dopo che questo mondo viene svelato agli umani, gli umani cominciano a fare esperimenti. Cioè, si presentano lì, non mi ricordo in quale luogo, per osservare l'eclissi, no, del 18, credo. Sì, 1918. Sì, credo una delle primissime. E poi improvvisamente si ricordano che forse però ma non sarà mai che quel calcolo dell'orbita del perielio di Mercurio che ci dava tanto fastidio, che pensavamo che bisognava farlo meglio, non è che questo spiegasse anche quello. Dopodiché un profluvio di conferme. Di conferme, un profluvio di conferme, e si aprono anche poi però le predizioni, cioè a quel punto non si fa più pura osservazione, a quel punto si risolvono le equazioni, si vede l'equazione, quali condizioni creano, i buchi neri non sono mica stati visti, i buchi neri sono un pezzo dell'equazione di Einstein, cioè sono una soluzione dell'equazione di Einstein. Ecco, ma lui all'inizio praticamente la sua risposta, possiamo dire, è un paradosso, perché ma come può essere che le cose vadano così? Lui dice: andiamo dentro questo paradosso, se lo accettiamo e viene fuori questa formula, questa descrizione, le cose tornerebbero. E però certo, è veramente uno slancio. Ma questo però era stato lo stesso esercizio, in qualche modo, che in forma più semplice era stato già fatto da Einstein con la relatività ristretta, no? Quando lui dice vabbè, basta, qui non è che noi possiamo stare a mettere d'accordo il mondo studiando tanti effetti piccoli e cercando di riconciliarli attraverso dei trucchi o delle cose. Partiamo da una sola considerazione, cioè che la velocità della luce è costante. Va bene, nel detto vuoto, niente, punto, punto e basta. Va bene. Esatto. No, ma questa è un'affermazione di nuovo di una riga, va bene? Basta fare questa affermazione e poi ne deriva tutta la relatività ristretta, va bene? Che poi noi verifichiamo tutti i giorni negli acceleratori di particelle, voglio dire, no? Negli orologi, nel GPS, che guida la nostra macchina, perché altrimenti andremo a finire nel primo fosso possibile immaginabile. Sì. Insomma, voglio dire, la straordinarietà di Einstein è quella di porsi una domanda semplice, va bene? Cioè di fare un assunto semplice, che fa pensare appunto che lui pensasse che tra l'altro il mondo fosse ragionalmente semplice. Va bene, Ferroni, spero che siamo riusciti a far vedere come in certi momenti la scienza, ecco, come gli astrattisti, no, che passano una roba di questo. a suo modo, era a suo modo un artista. Grazie Anzi, Ferroni. Lo scienziato è diventato così perché immaginiamo Einstein. Esatto, è diventato anche una specie di archetipo. Grazie Ferroni, buon lavoro. Grazie. Arrivederci. A proposito di relatività, adesso noi andiamo a vedere come questa si riflette, Chiara, anche su Babbo Natale. Oh sì, che ha appena distribuito, ha fatto appena un gran lavoro, siamo all'inizio anno, quindi si starà riposando alle Bahamas. Lavoro complesso. Ne parliamo con Giacomo Papi. Buonasera Papi. Buonasera a voi. Benvenuto. Scrittore, autore di una favola per piccoli e per adulti che si chiama I fratelli Christmas con la K. Edito da Einaudi. Edito da Einaudi. Questa roba dei fratelli ci arriviamo fra un po', noi però incominciamo con lei perché al centro della sua favola c'è, come dire, un ineludibile effetto relativistico che parte da un certo conteggio, cioè quanti sono i bambini che devono ricevere i regali, che hanno ricevuto già i regali. Ma considerando che siamo 7 miliardi su questa terra in questo momento, i bambini sono intorno ai 2 miliardi, però poi bisogna considerare almeno, io direi, 3 regali di media bambino, 3-4 regali già, di media bambino, e soprattutto il fatto che non è che gli adulti non ricevano regali. Infatti. Diciamo un regalo per adulto, quindi facciamo 7 su tutti, più un altro... 3 per bambino, sono 6. Diciamo più altri 6, quindi siamo su una consegna, stando molto, molto, molto bassi, intorno ai 15 miliardi di pacchetti. In una notte. In una notte soltanto, che è una notte che dura, direi, da mezzanotte in punto alle 6 di mattina, il che significa 6 ore. Non ce la si 15 fa. Miliardi di pacchetti. È molto difficile. Molto impraticabile. È un arduo lavoro. A meno che non si fermi il tempo. A meno che non si fermi il tempo. E infatti la grande rivelazione di questo libro è avere scoperto il segreto di Natale, che dipende da questo gnomo orologiaio, chiama signor Perparin Littmanen, che lavorando sugli ingranaggi del grande orologio del quartier generale di Babbo Natale, riesce a fare in modo che il tempo, che è una struttura spugnosa, quindi si dilata e poi si restringe, si dilati in modo da trasformare queste 6 ore di consegna in 6 mesi di consegna. Quindi un secondo vale 12 minuti, un minuto vale 12 ore, eccetera, eccetera. Considerando però che il tempo è complicato dal fatto che si passa continuamente in diversi sistemi, perché abbiamo prima un sistema che è a 6, poi diventa a 24, poi diventa a 365, a 37, considerando settimane e mesi, che rende i calcoli più È un bel casino. Sei mesi che, fatti i conti, però forse appena appena bastano per... Beh, comunque sei mesi deve pedalare. Però deve pedalare, sono molto veloce, comunque c'è questa zitta che è assolutamente veloce. Sì, comunque appena appena bastano. E se Babbo Natale appena appena prende un raffreddore? No, qui stiamo arrivando al racconto. Cosa immaginate? Babbo Natale, che la vigilia di Natale, Babbo Natale, che è un signore, si chiama Niklas Christmas, è un signore piuttosto grasso e calvo e anziano ormai, si sveglia con un febbrone a cavallo e raffreddore, tosse, insomma, malandato. Proprio quel giorno. Tutta una serie di malanni, e l'elfo dottore gli vieta di partire. Consegue una certa lite fino a che la fidanzata di Babbo Natale, e qua già c'è una notizia, che è una signora che si chiama Katerinen non l'abbiamo Katerinen mai vista, si impossessa di, viene l'idea di chiamare il fratello minore. Di sto fratello non si sapeva niente fino ad oggi. No, perché avevano litigato molti molti anni prima, e lui se n'era andato via aprendo la porta. Quindi anche una famiglia un po' strana, insomma, non, un po' sgangherata questo Babbo Natale. Mi sono persa come si chiama il fratello. Luciano. Perfetto. Non so perché. Papi, però si fermi qui, perché noi il libro vogliamo che venga acquistato, mica che ci svela tutto. No, ci mancherebbe. L'unica cosa, insomma, che ha questo Luciano è che è un eguagliatore. Nessuno ricorda più cosa significa eguagliatore, perché anche questo concetto di uguaglianza è stato dimenticato nel mondo. Cioè significa che vuole distribuire i regali in parti uguali a tutti i bambini allo stesso modo? Lui è convinto che almeno tra i bambini non ci dovrebbero essere differenze. Ah, ma bella per questa, una bella qualità. Poi dopo si possono verificare, insomma, la vita e la vita, la competizione, la meritocrazia e il capitalismo, ma almeno tra i bambini tutti dovrebbero ricevere le stesse cose, il che però si scontra con una serie di personaggi e fattori che vogliono che il Natale continui a essere quello di sempre. Cioè, i cattivoni. È un racconto, ecco, c'è anche un giallo, bisogna capire come si risolverà questa cosa. I fratelli Christmas di Giacomo Papi, che è stato qui con noi, edizione Einaudi. Grazie a voi e buon anno a tutti. Altrettanto, auguri. Che storia, ragazzi, questa del fratello di Babbo Natale non la sapevamo. No, e così insomma vogliamo salutare gli ascoltatori in questa prima puntata dell'anno, che sia un anno buono per tutti, ovviamente ricco di scienza e di ricerca e di tecnologia. Certo, anche un anno insieme. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao!